Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Ilaria Maria Sala, autrice del libro L'eclissi di Hong Kong, per presentare il documentario Revolution of Our Times al cinema da giovedì 30 giugno 2022, ben trovata. Buongiorno. Partiamo dal tuo libro, ce ne parli? Il mio libro è uscito in maggio, per cui copre fino ad eventi abbastanza recenti, e quello che io ho cercato di fare è stato di raccontare sia quali sono state alcune delle dei momenti di protesta, di tensione che ci sono stati fra le autorità e una parte importante della popolazione di Hong Kong, ma anche come siamo arrivati lì, che cos'è Hong Kong, qual è la storia di Hong Kong, quali sono le particolarità che rendono questa città, questo territorio ex colonia britannica e dal 97 tornata sotto sovranità cinese, un posto così ricco di storie, così diverso dal resto della Cina continentale, e anche tramite queste storie cercare appunto di trasmettere quello che rappresenta Hong Kong, ovvero un luogo unico, un luogo molto cosmopolita che ora sta subendo però dei cambiamenti molto importanti, esistenziali, che stanno appunto rimettendo in discussione sia la sua storia che anche il suo modo di rapportarsi al resto del mondo e di nuovo alla Cina continentale. Che impressioni hai ricavato dal documentario? Il documentario, in parte, io ero a Hong Kong nel 2019, per cui in parte riporta sotto gli occhi e anche alle orecchie in un certo senso le giornate del 2019 molto concitate, in cui gli avvenimenti si accavallavano l'uno all'altro rendendo a volte anche complicata l'analisi. Rivederli sul grande schermo ha un fortissimo impatto emotivo, quello prima di tutto direi. Poi naturalmente per un pubblico italiano che magari ha avuto modo di seguire queste cose in maniera più spezzata tramite non so, telegiornali, notizie sulla stampa, eccetera, fornisce un arco che aiuta a capire quello che è successo e quali sono state le diverse, sia da parte dei manifestanti che da parte delle forze dell'ordine, che hanno portato alla situazione in cui ci troviamo oggi. E anche appunto l'altra cosa, quando parlo di impatto fortemente emotivo, una delle cose che traspaiono maggiormente è la forza, in alcuni casi anche della disperazione, che ha portato molti manifestanti ad unirsi appunto alle proteste che ci sono state nel 2019, e anche quanto l'amare Hong Kong per così tante persone sia stato uno dei sentimenti più profondi che abbia mai visto. Questo atteggiamento quasi di sacrificio di molti giovani ha portato a superare un po' la dicotomia tra violenza e non violenza anche. La questione della violenza nel 2019 è forse quella che ha un po' concentrato molte delle discussioni, in particolar modo a Hong Kong, dopo che con l'arrivo del Covid tutto questo ha avuto fine. Secondo me quello a cui dobbiamo fare anche molta più attenzione invece è un po' la cronologia degli eventi, che non è una cronologia che possiamo limitare al 2019 stesso, per cui da parte di persone di Hong Kong vedere quanta più violenza ci sia stata da parte dei manifestanti stessi senz'altro è stato un momento forse spartiacque, comunque un momento di notevole sorpresa. Quello che però abbiamo visto fin dall'inizio dell'intera, viene da dire quasi saga, rispetto alla legge sull'estradizione che ha portato man mano a questo inasprirsi delle lotte, è stata una totale mancanza di volontà di dialogo da parte delle autorità nei confronti dei manifestanti, ma anche nei confronti dei vari gruppi civici che si erano schierati contro la legge, e in parte per una specie di lezione che i manifestanti avevano preso da altri movimenti che si frammentano in critiche gli uni contro gli altri, era stato scelto di non condannare mai le azioni di altri manifestanti, azioni che magari non avrebbero fatto loro stessi, però non volevano criticare pubblicamente quello che facevano altri. Ricordiamo che questo movimento non aveva leader e si è organizzato quasi sempre tramite forum online, per cui molte delle decisioni erano prese in maniera semicollettiva, diciamo. È chiaro che se noi isoliamo alcuni episodi di violenza senza metterli nel loro contesto, sicuramente li giudichiamo come assurdi, inaccettabili o come qualcosa di anche incomprensibile. Non credo che la violenza sia mai una soluzione, né sia mai raccomandabile o difendibile. Ciò detto, è molto importante appunto mantenere il contesto, e la violenza non è stata né iniziata né unicamente da parte dei manifestanti. Credo che nel documento si veda anche molto bene quanto la risposta delle autorità fosse stata spesso molto più che eccessiva. Com'è la situazione al momento? Credo che Hong Kong sia, insieme alla Cina, l'unico luogo in cui continuano a essere in vigore delle regole sanitarie estremamente strette, per cui da 2 anni e mezzo a livello politico ogni tipo di espressione di un pensiero politico, ancor più di un pensiero politico di opposizione, è bloccata dalle misure antipandemiche, sia dalle misure invece prese politiche che sono state imposte dopo l'approvazione da parte di Pechino della legge sulla sicurezza nazionale, che è passata nel 2020 e che ha reso illegali e sospette molte delle azioni politiche che erano invece parte del tessuto quotidiano di Hong Kong. In questo senso dunque è diventata una specie di unione un po' difficile da fare la parte di dove finiscono le misure pandemiche, dove iniziano invece le misure politicamente repressive delle nuove leggi. Per cui Hong Kong è decisamente molto diversa da quella che voi vedrete sugli schermi ed è anche decisamente molto più controllata. E in particolar modo in questi giorni, dal momento che con l'anniversario del 25° anno dopo che è passata sotto sovranità cinese, c'è ovviamente un fortissimo controllo. Le celebrazioni in passato prevedevano anche delle contromanifestazioni da parte di gruppi dell'opposizione. Tutto questo non è più legale a Hong Kong e quindi ci sono solamente i tripudi di bandiere rosse e le celebrazioni vere e proprie di questo anniversario. Il documentario Revolution of Our Times al cinema da giovedì 30 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Ilaria Maria Sala, autrice del libro L'eclissi di Hong Kong. A presto! Grazie mille. Con Alessandra Coppola, regista del documentario La Restanza, a Roma, allo Spazio Apollo 11, giovedì 30 giugno 2022. Ben trovata. Ben trovati, grazie. Grazie mille. Che storia hai raccontato? Questo è stato un film che è capitato per caso, nel senso che prima di arrivare alla storia c'è stato un incontro, tutto è nato da un incontro, nel senso che io, che sono originaria della Puglia, però di Bari, ero andata in questo paese, Castiglione d'Otranto, in Salento, per mostrare la mia terra al mio compagno, e per caso ho incontrato questi ragazzi e non ragazzi della Casa delle Agricolture, un'associazione che all'epoca si occupava soprattutto di ecologia o comunque di promuovere una cultura legata alla cura della terra. E per caso sono capitata lì il giorno di questa famosa Notte Verde, una manifestazione che loro fanno una volta all'anno, che è abbastanza grande. E in questa maniera ho conosciuto il loro gruppo e sono rimasta molto colpita perché avevamo moltissime cose in comune a livello di pensiero, ma soprattutto di domande che ci facevamo sul mondo, su dove andiamo, su come è possibile vivere, e soprattutto se dovevamo essere forzati ad adattarci a un modus vivendi che la società capitalistica, tutta orientata sulla produzione, insomma, ci imponeva, oppure se potevamo ancora scegliere qualcosa. E ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo passato più di una notte a fare chiacchiere, e poi ho deciso di ritornare lì a ottobre per continuare queste chiacchiere. E tornando a Bruxelles avevo filmato qualcosina, così, ma con una telecamera che avevo in tasca, mi sono detta no, bisogna fare un film. E la cosa che mi ha spinto a fare questo film è stato proprio il fatto che avevamo le stesse domande, gli stessi dubbi, gli stessi interrogativi, solo che io 20 anni prima me ne sono andata quasi sbattendo la porta, perché non vedevo nessuna possibilità di rispondere a certi interrogativi rimanendo in Puglia, mentre loro avevano scelto esattamente la strada opposta, cioè quella di risponderci restando lì. Quindi è sembrato ovvio che dovessi raccontare questa storia qui, perché innanzitutto la stavo raccontando a me, mi stavo raccontando, ma com'è possibile? È possibile? Quindi per me era anche una scommessa, sono andata lì curiosa, da una parte partigiana perché chiaramente volevo che andassero bene le cose, ma dall'altra parte ho sempre mantenuto anche una certa interrogazione aperta su questa storia. Per cui la storia che ho raccontato è la storia di un percorso che alla fine abbiamo fatto insieme, nel senso loro hanno cominciato a scommettere sulla possibilità di rispondere a certe domande, e a una su tutte, quella di come vogliamo vivere, restando nei luoghi in cui erano nati, e io accompagnando questo processo con la mia telecamera. Per cui è stata una specie di dilettanti allo sbaraglio, nel senso che loro non erano assolutamente contadini, chi veniva dall'università, chi era operaio, chi giornalista, e quindi sono dovuti diventare contadini, e io che ero una danzatrice sono diventata una regista sul campo. Ecco. Secondo te quali sono i punti di forza della loro esperienza? Sicuramente la visione è proprio la locomotiva che ha tirato tutto nei momenti peggiori, proprio nei momenti dove tutto sembrava capottare. E un altro punto di forza, che può anche avere i suoi svantaggi, però è proprio questo senso di comunità. È sicuramente il fatto che le persone che si sono messe insieme erano persone che pur a volte con approcci anche molto diversi, con provenienze politiche e ideologiche disparate, ecco. Però il fatto di appartenere allo stesso luogo, di aver vissuto lì da sempre, ha creato un collante molto molto forte. E conseguenza di questo è il fatto che in un modo o in un altro tutta la comunità ha partecipato a questo progetto. Certo, gli elementi trainanti sono stati pochi all'inizio e non sono numerosissimi neanche oggi, però tutti in una maniera o nell'altra contribuiscono, tutti partecipano, ma anche semplicemente facendo una torta, distribuendo informazione o venendo a dare una mano per allestire un palco. Insomma, ci sono i modi più disparati di contribuire e tutto il paese lo fa. Come è strutturato il documentario? È stato difficile strutturare la storia perché il loro progetto è un progetto molto diramato, per cui da che angolo prendere la storia è stato abbastanza complesso, tant'è vero che all'inizio io volevo fare un musical perché c'era un coro nel paese che cantava le loro gesta, se vogliamo raccontarlo così, e quindi creava questa canzone man mano che le cose succedevano, e quindi volevo che tutto fosse raccontato come un musical intorno a questo coro. Poi questo coro non ha tenuto più, si è fatto, e quindi ho dovuto cambiare linea narrativa. Un'altra linea narrativa che ho seguito per un paio d'anni è stata quella di raccontare questo progetto attraverso gli occhi di un giovane ragazzo pakistano che era arrivato lì da un paesino rurale del Pakistan con un po' il sogno europeo di fare tanti soldi, di poter rimandare la famiglia, di poter riuscire nella salire la scala sociale, e quando si è trovato lì in questo paese, insomma, era come se si fosse ritrovato in un'altra versione del suo Pakistan. Per cui trovavo molto interessante confrontare queste visioni e soprattutto i sogni di uno e i sogni dell'altro che erano disparati eppure si trovavano a convivere. Poi questo ragazzo è partito, quindi anche questa linea narrativa è andata e ho dovuto rinunciarci, e per cui alla fine sono tornata a qualcosa di molto semplice, ovvero raccontare attraverso i 4 personaggi che sono stati pilastri dall'inizio a oggi del progetto, raccontare un po' le loro storie, le loro vite, e attraverso proprio questo approccio un po' più intimo, un po' più personale, vedere cosa comporta il fatto di imbarcarsi in una avventura collettiva, anche in questo dialogo tra la dimensione del singolo e la dimensione del gruppo, ecco. E per cui la storia va a un po' questo arco qui, con un filo rosso che va bene, scoprirete guardando il film. Prima hai parlato di tempi, quanto è durata la lavorazione del documentario? La prima volta che sono andata lì era il 2014, agosto 2014, dove ho conosciuto i ragazzi della Casa dell'Agricoltura. La ricerca vera e propria è cominciata nell'aprile 2015 e l'ultimo girato è di dicembre 2019, 5 anni. Per saperne di più sulle proiezioni, ci dai dei riferimenti internet? C'è la pagina Facebook, La Restanza, poi c'è il sito della casa di produzione belga, che è grafui.org, si scrive grafui.org, e poi onair.it, però la pagina Facebook La Restanza è quella più aggiornata, è più messa, sì, messa a giorno più frequentemente alla fine. Adesso c'è un piccolo tour in cui io presenterò il film in sala in diverse città. Il documentario La Restanza a Roma, allo spazio Apollo 11, alla presenza dell'autrice, giovedì 30 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandra Coppola. A presto! Grazie mille! Con Giovanna Taviani, direttrice artistica della 16ª edizione del Salina Doc Fest a Roma, Casa del Cinema, dal 30 giugno al 3 luglio 2022, ben trovata. Ben trovato te e tutti voi. Raccontiamo cos'è per chi non lo conoscesse. Un festival che ho fondato 16 anni fa a Salina, nel cuore delle Isole Eolie. È dedicato al documentario narrativo, attenzione all'aggettivo narrativo, perché appunto ho sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, che il documentario, il cinema del reale, avesse delle grandissime potenzialità e potesse veramente documentare la realtà, però anche raccontando delle grandi storie. E abbiamo tantissimi esempi, abbiamo in questi 16 anni accolto la crema, proprio il miglior documentario narrativo o film del reale a Salina, e da 3 anni, questo è il terzo anno consecutivo, siamo approdati a Roma. Salina Doc Fest a settembre, nel mese delle vendemmie a Salina, e a Roma lo facciamo appunto a giugno, e quest'anno per la prima volta siamo entrati nel calendario dell'estate romana. Quante sono le opere proposte? Facciamo 19 documentari a Roma e 20 a Salina, quindi 40 documentari. Il concorso internazionale qui a Roma, selezionato da Anna Maria Pasetti, Antonio Pezzuto e Paola Cassano, abbiamo 4 anteprime nazionali e una mondiale, che è Piazza di Karen Di Porto, prodotto da Manni Moretti, ma in realtà poi il concorso è internazionale ed è il meglio del documentario narrativo degli ultimi anni sul tema che ogni anno do, che quest'anno è Diaspore, Incontri e Metamorfosi. Ma la cosa di cui sono particolarmente fiera, ecco, orgogliosa, è che a Roma quest'anno proponiamo una sezione importante sul documentario di animazione, a partire dall'ultimo meraviglioso film documentario d'animazione che è Flea, candidato all'Oscar, e tornando indietro fino a Persepolis, a Walter con Bashir, e a Samuni del nostro Stefano Savona, e faremo delle masterclass la mattina con gli art director del graphic novel e dell'animazione. Nel caso di Walter con Bashir arriva David Polonsky da Tel Aviv, quindi siamo molto molto contenti per riproporre questi grandi documentari e riflettere sulle metamorfosi del linguaggio del documentario, che si ibrida sempre di più con la finzione e con l'animazione, ed è molto bello vedere come l'animazione paradossalmente sia più reale del reale. Rifletteremo sul concetto di che cos'è reale, no? Come mai in animazione Flea, che racconta la storia del protagonista, storie vere, che fugge da Kabul, si trova nei barconi, arriva finalmente in Europa dove conosce il suo compagno, vince una borsa di dottorato e ritorna indietro con la memoria da uno psicanalista. Ecco, come mai questo viaggio che è raccontato in animazione e che viene alternato alle immagini di repertorio, di reportage televisivo con i servizi che vediamo sempre in televisione, sui barconi, sull'emigrazione, sulla guerra a Kabul, eccetera, Come mai è più reale quando vediamo l'animazione piuttosto che quelle immagini così sempre uguali che non ci commuovono più? Ecco, questo è il tema di queste masterclass. Come saranno strutturate le giornate rispetto agli orari? Facciamo la mattina, appunto dedicato alle masterclass per gli studenti di cinema, ma anche per il pubblico, dalle 11 alle 13 alla sala dell'Act, aria condizionata. Rilasceremo un attestato di frequenza degli studenti, appunto abbiamo il partenariato con il DAMS di Roma 3 che faranno parte anche della giuria del concorso. Il pomeriggio sempre alla Deluxe, sempre aria condizionata alla Casa del Cinema a Villa Borghese, dopo una breve pausa giù al bar dove hanno la possibilità, conoscendo tutti i festival, di chiacchierare con gli ospiti. Avremo anche un grande fumettista italiano, Vittorio Giardino, che viene da Bologna sempre per l'animazione, quindi comunque ci rivolgiamo a un pubblico vasto. Comincia il concorso, faremo due film al giorno pomeriggio nella slot che va dalle 4 alle 6, dalle 6 alle 8, poi chi vuole rimane all'arena aperta del Teatro Ettore Scola per assistere alla proiezione dei film e proponiamo appunto questi capolavori che, se qualcuno non ha visto Persepoli o Walter con Bashir, La strada dei Samuni o Flea, è l'occasione per vederlo sul grande schermo accompagnato dai registi e dagli art visual director. Per tutti i dettagli del programma ci dai i riferimenti web? Siamo sui social, Salina Doc Fest, e sul sito www.salinadocfest.it. Avete non solo il programma in diretta, ma ogni giorno lanceremo dei post relativi al programma del giorno dopo e ogni giorno faremo una photo gallery del nostro Paolo sul passo che ci segue per raccontarvi, chi non è qui a Roma, che cosa è successo. Tutto questo finisce domenica sera 3 luglio con una grande festa di premiazione, perché ti ricordo che i documentari in concorso sono 6, concorrono a un premio importante in denaro, premio Media Phoenix, giuria Laura Delli Colli, gioia avvantaggiato e Giaba Scego e premio studenti DAMS, e poi avremo appunto quindi la premiazione domenica e un'altra sezione importante del Serena che è il premio letteratura, premio Ravesi, che quest'anno diamo a Nadia Terranova per Trema la notte, un grande romanzo ambientato nel 1908 a Messina, una storia d'amore, di incontri, di metamorfosi, di destino, e questo premio verrà consegnato da un grandissimo amico del festival e anche del cinema del reale, che è Beppe Fiorello, che ha deciso di essere con noi domenica 3 luglio, quindi insomma ci sarà modo per vedersi e riportare un po' di Sicilia a Roma. 16ª edizione del Salina Doc Fest a Roma, Casa del Cinema, dal 30 giugno al 3 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giovanna Taviani. A presto! Grazie. Vi aspettiamo, ciao Federico, ciao a tutti. Con Maurizio Di Rienzo, direttore artistico della 23ª edizione di Shorts International Film Festival a Trieste dal 1 al 9 luglio 2022, ben trovato. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti. Comincia a avere tanti anni questo festival, raccontiamolo un po'. Si chiamava Maremetraggio, era fondamentalmente imperniato sui corti e questo è rimasto lo zoccolo duro, la vetrina più numerosa, forse dice Massimiliano Nardulli, che è il curatore della sezione dell'anno scorso, che si chiama Maremetraggio ancora, quella dei corti internazionali che hanno vinto almeno un premio negli ultimi 16 mesi, che sono 81 in concorso, credo che non ci sia, dice lui, ed è un grande esperto, un festival così ricco di corti, ma qui è quantità è uguale a qualità, molto spesso. Dunque è una storia che poi si è sviluppata nel tempo con altre sezioni, da qualche anno c'è quella di Nuove Impronte, che cura Beatrice Fiorentino con Massimo Causo da 2-3 anni, che è quella di lungometraggi, di opere prime e seconde, di registi che magari sono stati anche a dei festival come Rotterdam, come la Berlinale e qualcuno in anteprima italiana. Poi c'è la maratona del fumetto, i corti che i ragazzini dagli 8 agli 11 anni, dagli 11 ai 14, Shorter Kids and Teens, prima imparano a capire come selezionare, poi selezionano, poi visionano e poi giudicano, non sono gli stessi, quindi tutta una banda di ragazzini locali che si abituano a vedere le cose in un certo modo, e poi c'è tanto altro. Beh, insomma, è un festival che ha allargato il proprio sguardo ai famosi 360 gradi di cinema, perché è stato il primo dopo Venezia ad avere la realtà virtuale, che abbiamo saltato nel 2020 quando siamo andati online, perché in realtà virtuale online è una contraddizione paradossale ma reale, ed è ritornata nel 21 e tante altre cose, quindi evidentemente è un festival eclettico, eterogeneo, ma non confusionario, che ha una serie di focus. E a proposito di questi, chiudo questa prima risposta dicendo che c'è un focus molto importante dedicato ai corti israeliani. Sono in tutto pare 18 del passato e del recente presente, perché la scuola israeliana è una scuola di cinematografia già dai corti, oltre che dalle serie TV. È importante e fondamentale ed è un viaggio che faremo in altri paesi levantini dell'est Europa e del sud-est, anche del Medio Oriente, una volta per anno. Il festival è presieduto da Chiara Valenti Omero, che ne è stata la direttrice da molti anni e la co-direttrice con me, anzi direttrice in primis per 4 anni, e adesso è rimasta solo nella calcola carica, e non è poco. Il presidente operativissima a centrocampo nel caso di questo. Cambia qualcosa anche nella tour felice negli anni scorsi, divertente, Short Comic Marathon, che non avrà più una giuria di qualità che Francesco Paolo Cappellotto, esperto in materia, esperto di destino, aveva radunato, ma sarà una vera e propria catena creativa di fumetto, perché la maratona coinvolgerà molti aspiranti autori di strisce che sono chiamati a passarsi, dopo le prime 6 tavole disegnate da Cappellotto, il testimone di una storia che ha impostato Cappellotto e che devono continuare loro, per costruire quindi una storia a sé. Quindi è una maratona che non ha un vincitore, se non poi la pubblicazione di questa operina, non tanto piccola forse, di fumetto che deriva dal laboratorio. È prevista la presenza di ospiti, gli autori e le autrici? Come no, prima però vorrei dire che nella sezione maremetraggio la giuria è composta da un egiziano, Sameh Alaa, un regista, la israeliana Ella Kern, che ha contribuito al programma Focus Israel, e dal libanese Nicolas Kabbaz, persone che di solito non si dovrebbero neanche parlare fra di loro per quanto concerne la politica dei loro paesi. Beh, a Trieste, città crocevia di cultura e anche di problemi storici, ma fertile come sappiamo, è talmente eterogenea nel senso migliore del termine, ecco, questo accade. Allora, gli ospiti sono il premio Cinema del Presente, dopo Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Ricciardo Vagre, va Gabriele Mainetti, coraggioso, indipendente per certi aspetti, intraprendente per molti, compositore anche delle musiche dei suoi film con Michele Braga, e anche sceneggiatore, produttore e regista soprattutto, che con lo chiamavano Gigolo Po e Freaks Out ha compiuto un percorso per il momento interessantissimo. L'aveva cominciato con i 2 corti strapremiati, Basette e Tiger Boy, è stati anche a Trieste anni e anni fa, con cui aveva vinto dei premi. Quindi è una persona che è fantastica su elementi reali. È una dei protagonisti del suo film, la rivelazione serina, straordinaria, elettrica potremmo dire, dato il personaggio, Aurora Giovinazzo, riceverà il premio Prospettiva, un premio che ha inventato Chiara Romero molti anni fa, e i cui primi 2 che l'hanno ottenuto per primo sono stati Alvaro Orbacher e Luca Larinelli, poi Michele Riondino fino a Luca Zuric da ultimo. Insomma, diciamo che è stato un bel guardare in prospettiva. Infine un'altra presenza, tengo molto, io ho pensato che ci fosse un'attrice del presente nel cinema italiano in questi ultimi 12 mesi, si chiama Teresa Caporangelo, perché non è solo per i premi, è per quello che ha fatto e ha dimostrato sia nel film Il buco in testa di Antonio Capuano, che è il mentore, come sappiamo ormai dal film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che l'ha voluta nel ruolo di sua madre, l'ha vinto 2 Nastri d'Argento consecutivi e un Davide Donatelli. A parte i premi, quelli sono la conseguenza di come si è, del carisma e della bravura e del fascino della grande attrice anche di teatro napoletana e anche pugliese, Teresa Caporangelo. Quindi Aurora Giovinazzo sarà premiata insieme a Gabriele Menetti la sera dell'8 luglio con masterclass per entrambe, chiacchierate, vogliamo dire, sul cinema, sulla loro attività, e Teresa Caporangelo in chiusura prima delle premiazioni varie il 9. Ricordo che competitivi sono le sezioni maremetraggio dei corti, nuove impronte dei lunghi, shorter tips and teens, e poi abbiamo anche i corti EFA in tour. Abbiamo scelto fra i 15 corti proposti dall'European Film Academy per la terza volta per 3 anni che l'abbiamo, e siamo dei pochi festival ad averlo, i corti europei di maggiore importanza dell'ultimo anno, che fanno un tour europeo rilevante. Come è articolato rispetto ai luoghi e agli orari? Beh, ci sa anche il short lab, potremmo dire, pitching and training, che viene Massimiliano Nardulli, con 5 registi scelti su 10 che hanno presentato, presenteranno i loro progetti, lo presentando poi a produttori e distributori, eccetera, pubblicamente. Come si fa un pitching? Come si discute la tesi, diciamo, di laurea, cioè il proprio progetto nei vari lab e nei vari pitching dei vari festival? Ci sono delle passeggiate, la parte del Focus Israele è molto articolata e avrà dei momenti anche mattutini. Sabato mattina finale, il 9 luglio, avremo intorno ai 18-20 presenze in totale dei cortisti di maremetraggio, e contiamo di fare un confronto non tanto sulla situazione distributiva, ma proprio su quello che è fra l'estero e l'Italia la differenza in questo momento in cui il mondo vive di immagini, anche troppe, e in cui c'è uno sviluppo esponenziale di quello che si vede sulle piattaforme, sui canali tematici, ma il cortometraggio credo che sia ancora un po' legato a degli schemi vecchi anche di acquisto e di diffusione, per cui vorremmo capire quali sono le prospettive per i cortometraggi che si vedono tanto magari online, sul web, ma poi non se ne può usufruire adeguatamente nelle piattaforme. Faremo questa chiacchierata. Poi pomeriggio sera i film di nuove impronte, invece alle 9 ogni sera i 9 programmi in cui sono divisi gli 81 corti. Al giardino pubblico, molto rigoglioso e molto bello, nel centro di Trieste, a 1,5 km dal lungomare. Ma al Teatro Miela si svolgeranno le attività nuove impronte, i short kids and teens, le masterclass e i premi, la stessa premiazione finale, e questi sono i luoghi del festival che si svolgerà anche alla Casa del Cinema, ovviamente, dove c'è la virtual reality e i laboratori, corsi dedicati. Ecco, Antonio Giacomin, che è esperto di virtual reality, appronterà dei corsi per degli iscritti, saranno al massimo 10, per capire a che punto è la virtual reality, che sembrava stesse per esplodere altrove. Sì e no, in Italia ni e sì, potremmo dire, perché non ha uno sbocco vero e proprio di utilizzo per il momento, però è una frontiera evidentemente a 360 gradi da percorrere, perché è una visione, come tutti avrete capito, che non l'ho ancora sperimentata, con i propri visori sulla poltrona girevole, ti vedi il film letteralmente a 360 gradi, te lo vedi da solo, ma a tuo fianco sta facendo la stessa cosa un altro che lo sta vedendo in un altro modo, e quindi sei comunque con qualcun altro. Lo stare insieme mentre si sta da soli e viceversa è il segno di Shorts, che si chiama Shorts ma non è solo corti, eh. Chiudiamo con i riferimenti web per il programma. www.maremetraggio.com, è rimasto con quel nome, lo Shorts International Film Festival, dal 1 al 9 luglio, da un venerdì all'altro sabato, e abbiamo una sezione social che è molto ben curata e che credo anche quest'anno, dopo gli anni pandemici e post-pandemici, credo che sarà molto sviluppata. E l'ultima cosa, MyMovies One, con cui abbiamo collaborato in tempi più difficili, metterà appunto sulla sua piattaforma MyMovies One i 28, fra quelli di Shorter Kids and Teens e Maremetraggio, per queste due sezioni, i 28 inediti in Italia, corti che non si sono mai visti a nessun festival italiano, e quindi questo è il nostro contributo all'online quest'anno. 23esima edizione, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Maurizio Di Rienzo. A presto! Grazie a voi, grazie Federico. Con Cristiano Gerbino, co-direttore artistico della rassegna Film Society a Roma, in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato. Ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio. Ci siamo sentiti anche lo scorso anno, cosa cambia? Spieghiamo anche cos'è questa rassegna. Questa è una rassegna che quest'anno è al terzo anno, che si svolge principalmente al Teatro India e poi in altre arene con aree tematiche. L'anno scorso c'era il Monk, c'era anche un'arena a Torino, quest'anno ci sarà un nuovo spazio oltre al Teatro India che si chiama lo Sky Park, che è uno spazio, un rooftop stupendo al Casilino, nato qualche settimana fa, in cui ci sarà un'arena a 200 posti, molto bella, in cui faremo un po' di film, diciamo l'art house internazionale migliore a nostro umile giudizio dell'annata, della stagione appena passata. Al Teatro India invece, come ormai fra virgolette tradizione, facciamo un po' di film internazionali anche pressoché inediti grazie alla collaborazione con Mubi, e poi dei grandi classici italiani internazionali con un focus sul noir. E quest'anno c'è la collaborazione anche di Amnesty International, che farà tre serate sui diritti civili, e con Rai Cinema, che c'era già l'anno scorso, poi i cortometraggi, anche lì una selezione dei migliori cortometraggi della passata stagione. E ci sarà anche una mini rassegna alla Casetta Rossa, l'anno scorso era dedicata al Coming of Age, quest'anno sarà più sull'ambiente e sul futuro possibile che ci aspetta. Sono tante proiezioni, ci sono anche delle masterclass, come anche qui, fra virgolette, tradizione, sulla scrittura e sulla regia, che quest'anno si svolgeranno alla RUFA, che è una università privata di belle arti. Insomma, tantissimi appuntamenti. Quanti sono nel complesso i titoli? Sono circa 50, considerando anche i cortometraggi. Come funzionerà con le tre arene? Andranno anche in contemporanea? Sì, alcuni film andranno anche in contemporanea. Al Teatro India, alla Casetta Rossa, sono tutti film a ingresso gratuito, mentre lo Sky Park sono film della stagione, quindi ci sarà un ingresso a pagamento. Totalmente gratuiti invece saranno sia le masterclass, sia gli incontri che faremo con Torino Film Lab, stavolta online, e con Europa Creativa. Da un lato per lo sviluppo di progetti internazionali, lato scrittura, diciamo, lato autoriale, dall'altro per un po' più industry oriented verso le possibilità di finanziamento di film grazie ai programmi del Media Desk di Europa Creativa. Quindi ci sono tante cose, film per appassionati, lingua originale, tantissimi film che abbiamo amato e che hanno trionfato nei vari festival nel corso della stagione, e poi ci sono appunto degli approfondimenti sia per gli autori, noi tendiamo ad avere uno sguardo autoriale sugli autori, sia invece per chi produce. Com'è stata la scelta delle opere? Diciamo che avendo la possibilità di fare una selezione, per esempio al Teatro India, di una 35ina di film, noi andiamo un po' a istinto su quello che abbiamo amato, che ci ha fatto innamorare del cinema nel corso degli anni, quindi andiamo anche molto lontano. Quest'anno faremo il King of Comedy, diciamo la versione noir dei Joker, che era di Martin Scorsese, Re per una notte, poi un tributo come ogni anno, una grande passione per Woody Allen, con un altro dei film considerato fra i 10 film migliori di Woody Allen, però abbastanza sconosciuto, che è Brother Danny Rose. Poi facciamo anche Chinatown, facciamo Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di Un giorno da cani, riproponiamo dopo il successo dell'anno scorso anche un Melville con Le Samurai, c'è cioè Frank Costello Faccia d'Angelo, ci sarà Lenny, Being There, ovvero Oltre il giardino. Insomma, tanti film internazionali che hanno un po' cambiato la storia del cinema, e alcuni italiani, riproponiamo Colombella Rossa sul grande schermo, Gli anni ruggenti, Gli ordini sono ordini, questo per quanto riguarda il Teatro India. Invece per quel che riguarda lo Sky Park, diciamo, cerchiamo di fare una selezione di film che hanno uno sguardo abbastanza speciale. Ci sarà nello specifico un film che noi abbiamo amato moltissimo ma che non è arrivato in Italia e quindi sarà pressoché inedito perché non ha avuto distribuzione, che si chiama Last Black Man in San Francisco. Poi Annette, La persona peggiore del mondo, Rico di Spizza, però anche Waves, un altro film meraviglioso della 24, e anche film nuovi tipo Red Rocket e X, A Sexy Horror Story. Insomma, cerchiamo di dare un taglio a queste arene che sia da un lato appunto storia del cinema e dal lato chicche che non hanno avuto grandi platee ma che vale la pena vedere. In alcuni casi è prevista la presenza di ospiti? Noi quest'anno non facciamo film italiani contemporanei, un po' appunto sempre nella direzione di differenziarci, differenziare lo sguardo. Nella collaborazione con Mubi sono previsti degli incontri che ancora non sono stati confermati, però per gli aggiornamenti insomma vi invito ad andare sul sito www.filmsociety.it o anche tutte le pagine Facebook e Instagram, perché credo che a breve avremo delle novità, ecco. La rassegna Film Society a Roma in tre arene tematiche dal 28 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristiano Gerbino. A presto. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Con Mario Sesti, il curatore della 10ª edizione di Cinema al Masti, a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022, ben trovato. Grazie Federico, sei sempre puntuale, un cronista impeccabile. Partiamo dalle origini, come inizia Cinema al Masti? Cinema al Masti nasce dal fatto che ci sono due istituzioni che si occupano di cultura, un museo della creatività del XXI secolo, una fondazione che si occupa del cinema a Roma e che ha soprattutto in carico la Festa del Cinema, che è l'iniziativa di maggiore incandescenza, che decidono insieme di programmare qualcosa. Che cinema si può fare in un museo di arte contemporanea? Abbiamo fatto diversi tentativi e da lì poi è nato uno spazio dedicato al documentario, di cui tu hai perfetta nozione perché hai dato sempre puntuale informazione, si chiama Extra Doc, che quest'anno viene fatto a novembre, che in ragione di Covid è stato spostato. È nato anche un festival di video essay, che per l'appunto è alla terza edizione e che si svolgerà quest'anno il 5 luglio. E quest'anno c'è un'iniziativa in più che si chiama Extra Explore. L'idea è quella, il sottotitolo è alla ricerca di un altro cinema italiano, di censire, di far vedere, di aiutare a trovare anche un ulteriore pubblico a tutti i film italiani che abbiano un accanimento nell'innovazione, nell'intercettazione di personaggi, storie, sguardi diversi da quelli che tradizionalmente possiamo incontrare, ormai un po' fossilizzati, diciamo così, nei generi, nelle sale e nelle piattaforme, e che quindi proprio una fondazione e un museo d'arte contemporanea siano i posti più giusti, i luoghi più sani in cui far uscire dal conobuio Magari facciamo qualche titolo per capire di cosa parliamo. Per esempio A Chiara di Jonas Carpignano, che uno dei film italiani più belli dell'anno e la cui protagonista ha vinto il David Donatello e che sarà a presentarlo. Oppure Il Buco di Fra Martino, che ha vinto un premio importante a Venezia. Un film quasi completamente senza dialoghi, ma con immagini, situazioni, ricostruzioni, rievocazioni così suggestive, forti e dense, dove aveva avuto un coro di acclamazioni soprattutto della stampa estera a Venezia. E ci sarà Fra Martino a presentarlo. Dico tutto questo perché in realtà Extra Explorer non è semplicemente una rassegna. È un'arena, visto che si svolge all'esterno, subito davanti al Maxi. Ma è un vero e proprio festival, cioè un posto in cui ci sono i film accompagnati da coloro che li fanno e che incontrano in qualche modo il pubblico e che hanno la possibilità di vedere un pubblico reagire a ciò che hanno fatto. Sono film italiani, come per esempio Un piccolo corpo, che ha vinto il David Donatello come migliore esordio, che hanno tutti un partito preso, l'idea che c'è ancora tanta bellezza nel cinema da scovare, che non è stata ancora parlata, detta, mostrata, che ci sono tante storie che possono essere scovate nella verità del mondo e che raccontate di fronte a uno schermo acquistano una grazia, una bellezza e naturalmente l'intensità della forma, del linguaggio che la parla, che è ciò che amiamo del cinema fondamentalmente. Che scadenza si è dato quest'anno? È un festival, diciamo così, di natura orizzontale, nel senso che quasi ogni giovedì c'è un pubblico. C'è anche una giuria di under 30, di ragazzi appassionati, di buona formazione, che sono guidati da Giulio Scarpani, un volto molto noto del cinema, della TV, del teatro, affiancati da due critiche cinematografiche di grande esperienza, come Patrizia Pistagnesi e Roberta Ronconi, che fanno parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. Questa giuria assegnerà sicuramente un premio al migliore di questi 6 film italiani che io ho scelto attraverso naturalmente i festival più importanti, Cannes, Venezia, Torino, Taormina. Io credo che chi avrà modo di poter seguire questa rassegna avrà effettivamente una selezione di cinema italiano veramente cristallina, ecco, la possibilità veramente di vedere come il cinema italiano, poi indipendentemente dai risultati al botteghino, che come sai sono diventati drammatici, ha la capacità di reagire con la generazione di talenti che segna anche il modo in cui, indipendentemente dalle condizioni materiali e produttivi, il cinema appartiene al DNA di questo paese in maniera profonda e per certi versi misteriosa. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli della programmazione? Potete trovare tutto sul sito di Fondazione Cinema per Roma, poi sul sito del Maxi. Un'ultima informazione, tutti quanti i lungometraggi sono preceduti da dei corti realizzati dagli allievi della NABA, la nuova Accademia di Belle Arti che hanno aperto a Roma, e che dà naturalmente un ulteriore tasso di creatività, di originalità e anche se poi un po' di speranza alla possibilità che sul grande schermo appaiano al più presto anche nuovi talenti in grado di riempirlo. La 10ª edizione di Cinema al Maxi a Roma dal 16 giugno al 28 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Mario Setti. A presto! Grazie a te Federico. Con Leandro Pesci dell'ANEC Lazio per presentare Cine Village a Monteverde a Roma, Largo Ravizza, dal 27 giugno al 7 settembre 2022. Ben trovato. Grazie a tutti e buona giornata a tutti. Quest'anno si sposta a Monteverde, come mai la scelta di Monteverde? Non possiamo più fare talenti, abbiamo scelto Monteverde perché Monteverde è un quadrante della città dove non esistono sale cinematografiche, quindi dal punto di vista cinematografico è una zona sprovvista e quindi andiamo a casa loro, portiamo il cinema in casa, visto che non ce l'hanno durante l'inverno, non c'è stata una sala cinematografica vicino e nello stesso municipio. Quindi abbiamo scelto questa ipotesi perché riteniamo che sia una cosa molto importante per i cittadini che abitano nel municipio. Ogni giorno un evento? Sono quasi 2 mesi e mezzo. Ogni giorno c'è un film diverso, ogni giorno c'è una iniziativa diversa, nel senso che ci saranno anche delle iniziative, degli eventi, ci saranno degli autori che accompagneranno i loro prodotti. La programmazione noi la facciamo 15 giorni per 15 giorni, perché i programmi possono sempre cambiare. Com'è stata la scelta dei titoli? Nei primi 15 giorni, quindi diciamo nella prima programmazione, è stata una scelta molto variegata. Abbiamo spaziato dai film commerciali a dei film anche impegnati. Perché questo? Perché non sappiamo come il pubblico di quella zona come reagisce, che tipo di pubblico ci abbiamo, che tipo di programmazione preferisce. Quindi in questi 15 giorni abbiamo fatto un mix di vari film, così saremo in grado nel proseguo della programmazione da poter stabilire che tipo di spettatori ci abbiamo, e a quel punto andremo su un target o su un altro, o altrimenti continueremo a fare un mix di tutto, sia più commerciale e sia più di qualità. Ci sono anche degli eventi gestiti da Franco Montini. Sono eventi con la partecipazione di registi o di alcuni attori. Montini sviluppa un target che lo chiamiamo il cinema italiano vincente. È un cinema che magari è stato visto in tono minore, che magari ha vinto anche dei premi. Come sarà strutturata l'area? Uno schermo da 10 metri per 4,5, ci sono 393 sedie, questo è l'arena cinematografica. Poi all'interno della Piazza Ravizza ci sarà una zona dove il venerdì, sabato e domenica ci sarà una zona con i stand e con i mercatini, e poi tutte le sere ci sarà la presenza del food. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? cinevillageroma.it. Cinevillage a Monteverde dal 27 giugno al 7 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Leandro Pesci dell'ANEC Lazio. A presto. Grazie a voi, vi aspetto tutti quanti. Grazie. Con Alessandro Stellino del Festival dei Popoli per presentare i 6 film nelle 4 date curate dal Festival all'interno della rassegna Apriti Cinema dal 1 al 27 luglio a Piazzale degli Uffizi di Firenze. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti, grazie. All'interno di questa rassegna avete questa parte curata da voi, ce ne parli? Beh, Alina Marazzi non so quanto bisogno abbia di presentazioni, ma è una delle principali autrici del cinema italiano e nasce come documentarista, quindi realizza agli inizi degli anni 2000 un film che è ormai un caposaldo della storia del cinema degli ultimi 2 decenni, che è Un'ora sola ti vorrei, un documentario unico, innovativo, struggente, documentario personale in prima persona sulla storia della regista e del suo legame con la madre, un legame reciso molto presso. Il film in qualche modo si fa carico del recupero di questa relazione, potremmo dire impossibile, visto che la madre, la regista, non l'ha mai conosciuta, e quindi questa ora sola in cui ti vorrei è l'ora del film in cui la regista appunto ricostruisce il legame con la madre attraverso delle lettere, attraverso dei materiali filmati straordinari realizzati dal nonno cinematore. Questo è il film che rivela Alina Marazzi al mondo degli appassionati di cinema, e da lì in avanti la sua produzione non è particolarmente prolifica, ma anche i film successivi sono di grande importanza. In particolare vogliamo anche Le Rose, che è un viaggio all'interno delle lotte femministe. Tutto parla di te, che è un po' una versione finzionale, quindi sceneggiata, con attrici della stessa narrazione al centro di Un'ora sola ti vorrei. E infine dei film con cui poi invece noi andiamo proprio ad aprire la nostra rassegna, quindi venerdì 1 a Piazzale degli Uffizi, che sono un corto intitolato To Kiss to Think, che è stato finanziato da Dior ed è dedicato da Alina Marazzi a Lucia Marcucci, un'artista toscana che forse non tutti ricordano, ma ha fatto parte di un'avanguardia cinematografica, artistica, già a partire dagli anni 60 in avanti, e quindi Alina ha questo personaggio un po' da riscoprire. Questo corto abbastanza folgorante, il film verrà seguito poi da Anna Piaggi, una visionaria della moda, questo è il titolo, che invece è un ritratto di Anna Piaggi, giornalista nota, no, del mondo della moda, estrosa, e insomma un personaggio unico nel suo genere, di cui Alina fornisce un ritratto. Quindi apriremo proprio il prossimo venerdì alle 21.45 nel Piazzale degli Uffizi, questa rassegna importante, un'attrice che amiamo tantissimo. Mercoledì 13 faremo seguire proprio un'ora sola a Tivo Rei, quindi l'ordine non è cronologico, però aggiungiamo che in quella occasione ci sarà anche la presentazione di Confini, che è un altro corto realizzato nel 2014 da Lina Marazzi a partire dai materiali dell'Istituto Luce, quindi questo anticiperà un'ora sola Ti Vorrei. Questi materiali dell'Istituto Luce sono accompagnati da una bellissima narrazione su un testo della poetessa Mariangela Gualtieri. Il 20 invece ci sarà Tutto parla di te, che è film di finzione presentato nel 2012 alla Festa del Cinema di Roma con Charlotte Rampling e Elena Radonicic tra le protagoniste. E infine, appunto, Vogliamo anche le rose, che è un altro documentario, mercoledì 27 luglio, a chiudere il programma. Come nasce questa collaborazione con Apriti Cinema? Ci tengo anche a dire come nasce l'idea di dedicare ad Alina Marazzi questa rassegna, perché da tempo io avevo in mente di portarla all'interno della programmazione del festival, e quindi in realtà questa rassegna richiamo dentro la programmazione di Apriti Cinema. La collaborazione del festival con Apriti Cinema è di lunga data, io sono direttore da soli 2 anni, questo sarà il terzo, e quindi il festival fa parte da molto tempo delle manifestazioni che si occupano della programmazione estiva di Apriti Cinema. Avevo pensato che Marazzi potesse essere la persona per poi, in occasione del festival, di curare una sezione specifica del Festival dei Popoli. Quindi in realtà queste 4 proiezioni, questi 6 film, sono, potremmo dire, il prologo di una collaborazione che avrà luogo a novembre. Le date del festival sono già ufficiali, sono quelle che vanno dal 13 novembre prossimi, e Alina Marazzi in quell'occasione curerà una sezione del festival che è la sezione storica, quella anche a partire dai materiali dell'archivio del Festival dei Popoli, che si chiama Diamonds Are Forever, e Alina Marazzi curerà quindi questo percorso tematico all'interno del cinema documentario al femminile. Quindi proporrà 10 titoli che presenterà personalmente, scelti tra film che ama di più realizzati da donne nel corso della storia del cinema. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Basta andare sul nostro sito, quindi festivaldeipopoli.org, trovate subito la news, che è la più recente e immediata, quindi salterà subito all'occhio. Credo si debbano prenotare i posti, se ricordo bene sono proiezioni gratuite, quindi bisogna semplicemente prenotare il proprio posto. Voglio di farlo anche perché immagino che da questa prima serata, visto che sarà presente anche la regista, sarà molto, insomma, sarà molto richiesta, e ci auguriamo che ci sia molta gente. I 6 film proposti dal Festival dei Popoli e dedicati al cinema di Alina Marazzi all'interno della rassegna Apriti Cinema a Firenze, Piazzale degli Uffizi, dal 1 al 27 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Stellino. A presto! Grazie a voi, a presto. Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi, moderatore della parte cinema del Festival Libera il Futuro per valorizzare la creatività dei giovani con i giovani, a Roma, Libreria Zalib, dal 28 al 30 giugno 2022. Ben trovato. Grazie, grazie, sono sempre contento di esserci. Un festival che si occupa di varie discipline, quella di cinema però è in queste 3 giornate, raccontaci un po'. Libera il Futuro è stato un progetto triennale portato nelle scuole, un progetto di educazione che Arsi Ragazzi di Roma ha portato nelle scuole per 3 anni, e questi sono gli eventi conclusivi in cui in qualche maniera i discorsi che sono stati affrontati didatticamente vengono portati alla città, quindi ci saranno momenti di sport, momenti di teatro, momenti di musica, e per quanto riguarda il cinema abbiamo deciso di coinvolgere in questo bellissimo giardino di Zalib, appunto a Trastevere. Abbiamo deciso di coinvolgere 3 persone che in maniera diversa hanno raccontato i giovani, o la maniera con cui le altre generazioni guardano i giovani, o anche il desiderio di rimanere sempre giovani. Iniziamo il 28 8 di giugno con Ludovico Bessegato, che è uno dei creatori, degli autori e dei registi di Scam Italia, quindi un titolo chiave per questa generazione di spettatori seriali. Ma in realtà, insomma, Ludovico viene dalla serialità del web con Kubrick, Una storia porno, ha attraversato come produttore creativo, consulente creativo, anche la serialità Rai, Rocco Schiavone, eccetera. Con lui racconteremo proprio come ci si deve ridefinire a seconda del linguaggio. Il giorno dopo, il 29, sarà la volta di Ciro De Caro, fresco vincitore di un Nastro d'Argento per il suo Giulia, che da sempre, sin dall'esordio di Spaghetti Story, racconta questi personaggi che non vogliono diventare adulti, no? Non vogliono accettare la maturità. E con lui parleremo un po' di una via al cinema più indipendente, più legata proprio agli stilemi di quel cinema lontano dalle vie di un mainstream troppo facile, ecco, non ci va molto fresco. Il giorno dopo, invece, il 30, chiudiamo con Francesco Bruni. Insomma, Francesco Bruni, con le sue sceneggiature per Virzì, in qualche maniera ha creato dei veri e propri cult generazionali, penso a Ovo Sodo, e quando è passato alla regia ha continuamente raccontato le difficoltà dei rapporti intergenerazionali, sin da Scialla fino alla serie Ventura, insomma, che lui sta finendo di preparare, poi anche gli altri suoi film da regista. Quindi ecco, sono tre volti di personaggi differenti, tutti non solo registi ma anche sceneggiatori, produttori, eccetera, che ci racconteranno vie differenti ma che poi si incrociano tutte tra di loro per parlare ancora dei giovani e magari anche ai giovani, ecco, che forse è la cosa più importante. Com'è stata la scelta di questi tre incontri? Da un lato ci siamo chiesti, i ragazzi a cui per 3 anni appunto questo progetto ha parlato, che cosa guardano e dove lo guardano, no? Non guardano solo la serialità appunto di Ultima Generazione, che pure racconteremo nell'incontro con Bessegato, ma magari ad esempio Francesco Bruni per loro è un nome che sì rappresenta un cinema italiano legato a una generazione precedente, ma che in qualche modo è connesso anche con il presente, anche per via, no, del fatto che il figlio è forse il più noto musicista trap della città, no? E tra l'altro su questo rapporto si sono costruite storie, sia da alcune delle sue storie da regista, che invece, no, anche ad esempio penso a Lovely Boy, il film di Lettieri, quindi c'è una sorta di connessione continua tra le generazioni e tra i linguaggi. Per quanto riguarda Ciro De Caro, io penso che Ciro sia proprio l'esempio di quel tipo di regista che magari qualche ragazzo interessato al cinema poi aspira a diventare, no? Appunto, chiaramente indipendente, minimalista, che racconta la città, racconta il quotidiano, no? Quel tipo di cinema che a un certo punto ci colpisce un po' tutti da adolescenti, no? Quel cinema che ci sembra aver capito, ecco. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Il programma è su liberalfuturoroma.it, che è il sito, poi c'è la pagina Facebook, basta cercare appunto Libera il Futuro Roma, l'abbiamo appena pubblicato anche su Sentieri Selvaggi, poi anche tutte le pagine social di Zalib, che è il posto che ci ospita. 28, 29 e 30 iniziamo alle 18:30, quindi quando il sole ci ha smesso di picchiare, il giardino è molto ombreggiato, l'ingresso è gratuito, si può stare belli freschi e tranquilli e sentire un po' quello che hanno da dire questi nostri ospiti. Libera il Futuro Festival, per valorizzare la creatività dei giovani con i giovani, a Roma, libreria Zalib, per quanto riguarda la parte cinema, dal 28 al 30 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi, che farà da moderatore. A presto! A presto, grazie! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.